Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Mentre gli Stati Uniti d'America si accingono ad abbandonare il nucleare e ad investire tutte le risorse disponibili sulle fonti rinnovabili e sul risparmio energetico, dando inizio ad un cambio di strategia che a breve sarà seguito dalla stragrande maggioranza dei paesi più industrializzati del mondo, Cina inclusa, Berlusconi costringe l'Italia e gli italiani a compiere una scelta diametralmente opposta, esattamente come l'Iraq. Diranno che servirà a restituire competitività alle imprese italiane, che negli anni hanno effettivamente pagato l'energia ad un prezzo superiore a quello pagato dalle imprese che producono in paesi che hanno esercitato l'opzione nucleare. Ma non diranno a nessuno che tra circa 10 anni, una volta completato il gigantesco affare legato alla costruzione delle centrali nucleari e prima ancora della loro entrata in funzione, ogni potenziale beneficio risulterà completamente azzerato. Avremo semplicemente sostituito la nostra dipendenza dal petrolio con la dipendenza dall'uranio, il cui prezzo si è decuplicato negli ultimi anni a causa di una ormai cronica insufficienza delle estrazioni, che recentemente ha costretto gli stessi francesi a rifornirsi da vecchie testate nucleari sovietiche smantellate. Avremo sottratto miliardi di euro agli investimenti sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico, che sulla base di valutazioni operate da esperti di tutto il mondo generano per ogni miliardo di investimento pubblico 2 miliardi di investimento privato e determinano, rispetto allo stesso importo investito per la realizzazione di una centrale nucleare, la produzione del doppio di energia elettrica. Avremo accumulato altri 10 anni di ritardo sulle nuove tecnologie rispetto a paesi come la Germania, il Giappone, gli Stati Uniti d'America e la stessa Cina, che hanno invece investito o che hanno deciso di investire seriamente sulle energie rinnovabili. Avremo perduto l'unico beneficio che questi anni di sacrifici del nostro sistema produttivo ha lasciato in eredità alle nuove generazioni, quello di non doversi fare carico dei costi giganteschi necessari per lo smaltimento delle scorie e lo smantellamento dei siti dei quali sono costretti a farsi carico i contribuenti francesi. Avremo costretto le popolazioni dei territori che ospiteranno i siti a vivere nelle stesse condizioni dei cittadini francesi che negli ultimi anni hanno convissuto con una serie innumerevole di incidenti. Il nucleare è il passato, le energie rinnovabili e di risparmio energetico sono il futuro. E piuttosto che del futuro delle sole poche imprese amiche che parteciperanno all'immenso banchetto del nucleare in Italia, Berlusconi dovrebbe occuparsi, come Barack Obama, del futuro di tutto il paese. Lettera firmata. Il solare proposto da Carlo Rubbia ha dei limiti tecnici che ne limitano l'efficienza e non c'è ricerca che tenga, sono limiti fisici dei materiali. Vedere le rinnovabili come una parte della torta che compone la produzione dell'energia è un conto. Pensare a questi metodi come alla soluzione per produrre tutto ciò di cui abbiamo bisogno è da sognatori in buona fede o da esperti in malafede. Simona. Perché si continua a contrapporre il nucleare alle rinnovabili? Tutto l'universo funziona con energia nucleare, le rinnovabili invece vanno sfruttate. Io ho messo i pannelli per l'acqua calda sul tetto, producono in un giorno d'estate l'acqua calda che la caldaia produce in 20 minuti. Cosa facciamo? Moriamo di smog in attesa degli sviluppi tecnologici del nucleare? Ci sono già quelli che usano solo energie rinnovabili. Sono gli Amish. Chiedete agli ambientalisti se vogliono vivere come un Amish. Sono una massa di ipocriti, fanno gli ambientalisti a parole e poi comprano auto in base all'accelerazione e non alle emissioni di CO2. E non parliamo poi se qualcuno mette un mulino a vento vicino alla loro casa. Lottano contro, come se i mulini fossero zingari. Lettera firmata. In alcune zone del paese esiste un fiorente traffico di droga e sono convinta che se un gruppo di persone passeggiasse in queste zone e all'occorrenza chiamasse i carabinieri, si otterrebbe l'effetto di inibire il comportamento di queste persone che campano di spaccio. Non credo infatti che continuerebbero tranquillamente le loro attività se qualcuno girasse lì dove sono loro, insomma, se qualcuno li disturbasse un po'. Chiamando i carabinieri o la polizia, magari per una volta, li si potrebbe sorprendere in flagranza di reato e sperare in un magistrato che li tenga dentro. Non credete che un'azione di disturbo possa essere abbastanza efficace per la tutela dei cittadini? Francesca. Animali, bestie, eccetera. Queste le più ricorrenti definizioni degli stranieri protagonisti degli ultimi episodi di stupro. Anch'io ho difficoltà a trovare termini più adatti per descrivere tali individui. Però, a pensarci bene, mi sembra che non siano gli unici a meritare tale qualifica. Ogni anno si stima in circa 80.000 il numero di italiani che praticano il turismo sessuale in paesi del terzo e quarto mondo. Lì, bambine e bambini si prestano ad atti sessuali con adulti paganti. Naturalmente, non c'è violenza. Le bambine di bambini di 8-10 anni sono consenzienti. Anzi, mostrano gratitudine per le caramelle e le cioccolate che generosamente i loro benefattori gli elargiscono. Circa 80.000 all'anno, diciamo in media 220 italiani ogni giorno, partono per terre assai lontane, non più per cercare lavoro e prosperità, ma per fare sesso con bambine e bambini a loro forniti da mani premurose. Senza uscire dall'Italia, le migliaia di prostitute, ormai quasi tutte straniere e molto spesso minorenni, sono richieste da milioni di italiani. Naturalmente anche loro sono consenzienti. A vincere la loro resistenza ci ha già pensato qualcun altro. Non dimentichiamo che non esiste offerta senza domanda, ma soprattutto la differenza tra le bestie italiane e quelle straniere è che quelle italiane hanno i soldi per pagare qualcuno che pratichi la violenza per loro conto. Io al pacchetto sicurezza avrei aggiunto un emendamento. Per far parte dei volontari della sicurezza, leggi ronde, bisogna attestare sotto giuramento di non avere mai avuto rapporti con prostitute. Ricordando George Orwell, la fattoria è la stessa, ma i maiali, o per meglio dire i porci italiani, si possono permettere di camminare su due zampe. Lettera firmata. Sono molto perplessa sui vantaggi che potranno arrivare dalla presenza delle ronde. Quelle autorizzate saranno composte da uomini armati di cellulari. Sai che paura per criminali incalliti, abituati a sfidare anche poliziotti con pistole vere. Quelle spontanee saranno inevitabili, soprattutto in reazione al primo prossimo brutto episodio di violenza, e non siamo sicuri che non luccicheranno nella notte lame di coltelli e armi da giustizieri, che agiranno con l'alibi di essere approvati dalla legge. Non vorrei che le ronde avessero a loro volta bisogno di aiuto, subendo imboscate da gruppetti di delinquenti che cercheranno di mantenere il controllo del territorio, forti di avere a che fare con persone disarmate e che non vedranno pacifici cittadini come uno stop ai loro comportamenti. Io personalmente mi sentirei protetta solo dalle forze dell'ordine, da persone qualificate e preparate, non da cittadini indifesi come me. Anche il cittadino singolo può telefonare alla polizia se nota qualcosa di sospetto. Ricordiamoci che ognuno di noi può nel suo piccolo essere un buon osservatore e può proteggersi evitando di mettersi in situazioni pericolose, come passeggiare in parchi mal frequentati, soprattutto nelle ore buie, come è successo negli ultimi casi di violenze. Purtroppo non possiamo vivere le nostre città come vorremmo, senza pensare che oramai ci sono tanti piccoli Bronx da cui tenersi alla larga. Giulia. Caro direttore, le allego qualche considerazione esplicativa in merito alla cosiddetta crisi globale, che secondo alcuni critici dovrebbe dimostrare la irreversibile crisi del capitalismo e del libero mercato, che pertanto dovrebbe essere regolato in modo da renderlo meno selvaggio. A mio modo di vedere, l'attuale crisi globale è invece la dimostrazione dell'assoluta efficienza del libero e selvaggio mercato finanziario che ha travolto ogni vecchio schema istituzionale radicato all'ormai defunto regime degli Stati-nazione. La crisi esiste già per quelle istituzioni liberal-democratiche ma obsolete che devono rapidamente concordare i nuovi ruoli nazionali nel contesto del mercato globale. Quelle istituzioni democratiche sono costrette rapidamente a spartirsi gli oneri di riassorbimento graduale e concordato dell'esposizione debitoria del Nord, generata per consolidare il trasferimento delle produzioni manpower intensive al Sud. Ne abbiamo beneficiato tutti, Nord e Sud, grazie a scelte assunte dalla vecchia Wall Street, che ormai ha consolidato i suoi nuovi confini di una Wall Street globale, che riesce efficacemente ad esercitare le nuove funzioni di lobbying presso i vari vecchi legislativi nei diversi stati-nazione. I vecchi legislativi sono obbligati ad assumersi l'onere sostenibile di assorbimento del debito accumulato nel Nord solo per evitare altrimenti le inevitabili reazioni elettorali delle varie Main Street che destabilizzerebbero la continuità delle elite nazionali, dai sindacati ai partiti e capobastone connessi, senza poter rispondere efficacemente alle aspettative che ormai Main Street in tutto il mondo e sotto qualsiasi regime pone loro in termini di partecipazione alla crescita economica. Ciò che accade, quindi, non è né una crisi industriale, che verrà evitata per le sue globali conseguenze, né una crisi finanziaria. Infatti, i titoli spazzatura che hanno consolidato la globalizzazione possono essere riassorbiti assorbendone i contenuti selettivi di rischio politico. Ciò che avviene è una crisi istituzionale e politica, in quanto le vecchie istituzioni e relazioni internazionali stanno sotto pressione senza alternative tra concordare rapidamente un nuovo ordine globale oppure subire globalmente, inutilmente e solo temporaneamente, una fase recessiva industriale fonte di sangue e lacrime, ma destinata a ricostruire la corrente globalizzazione industriale sotto l'egida delle economie più solide, flessibili e competitive, e sotto l'egemonia politica dei paesi più credibili in quanto a capacità di reazione e riadeguamento istituzionale. Lettera firmata. Scrivo per sottoporvi il problema degli anziani e il pericolo che essi vengano interdetti, malgrado la nuova legge sull'amministrazione di sostegno, con il fine di annullare la loro volontà, allo scopo di relegarli in case di cura e, presumibilmente, accelerare la loro fine. Ciò accade, in special modo, quando vi è in gioco un patrimonio familiare di una qualche entità e sussistono antichi rancori. Personalmente sto vivendo in modo ormai drammatico una situazione di tale genere. Mio padre, Vittorio Fedele, è stato per molti anni giornalista del Tempo all'Economico, all'epoca della direzione di Gianni Letta. Lui è scomparso nel 2003 e da allora, malgrado i miei impegni di ricercatore e docente universitario, sono costretto a combattere una battaglia costosissima, sotto ogni punto di vista, per proteggere sua moglie, mia madre. La legge non è sufficiente. Le prassi permettono il verificarsi di situazioni rischiosissime per gli anziani ai primi cenni di cedimento delle loro capacità. Io sto facendo tutto quello che posso, ma mi sono scontrato con comportamenti incredibili, probabilmente interessati, e con avvocati dotati di una spregiudicatezza eccessiva oltre ogni immaginazione. Credo che questo tema dovrebbe avere un ben superiore spazio nei media, cosa che purtroppo ad oggi non accade, malgrado sia un problema che riguarda e potrebbe riguardare molti, oltre ad essere un'evidente questione sociale e morale. Grazie dell'attenzione, Lorenzo Fedele. Caro Lorenzo, lei entra nel tema estremamente complesso e delicato degli anziani e della morte. Un tema di cui si è parlato molto nelle ultime settimane per il caso Eluana e per il dibattito politico sul testamento biologico. Ma lei pone il problema secondo un profilo diverso, finora volutamente dimenticato, quello degli interessi economici. Di questi interessi si parla spesso dopo la morte, per le contese che regolarmente avvengono quando sono in gioco eredità anche cospicue. Ma questi interessi sono inevitabilmente presenti anche prima e sono in grado di condizionare le scelte di assistenza e in qualche modo di accompagnamento della malattia. Si tratta di elementi che riguardano la sensibilità delle persone, l'amore per i loro parenti e congiunti, la passione per la vita e la necessaria coscienza per la morte. Lo Stato può e deve intervenire con regole e leggi efficaci, ma può arrivare, anzi, deve arrivare fino a un certo punto. Deve arrivare fino al punto di non togliere spazio alla libera espressione dell'umanità. Per questo è importante che si discuta, tenendo conto anche di questo aspetto, perché soprattutto su un tema così forte deve entrare in gioco la libertà, ma anche una grande responsabilità di ciascuno di noi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.